America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Continuiamo il nostro sommario 2012. Beh, quest'anno americano, devo dire, sarà ricordato anche per l'uragano Sandy. È stata una delle esperienze, e ve lo dice uno che l'ha visto questo Sandy arrivare direttamente dall'Atlantico, l'ha visto in prima persona. America 24, 29 ottobre 2012. L'impatto con Sandy c'è stato, siamo nel pieno dello scontro di questo uragano con il territorio americano. Dico territorio americano perché sta colpendo l'intero nord-est, non soltanto New York, non soltanto il New Jersey, ma anche il Connecticut, anche la Virginia, una gran quantità di stati americani, 12 stati sono coinvolti, 60 milioni di persone. Sappiamo che ci sono stati danni enormi lungo il percorso, già nella Carolina del Nord ci sono stati molti danni, non vi sono ancora delle valutazioni, anche perché le comunicazioni su quello che sta succedendo arrivano con grande ritardo. Dunque saremo in grado di darvi una valutazione di quel che è capitato più tardi. Anche qui lo sviluppo più forte c'è stato soltanto nella notte, siamo alle prime ore di valutazione di quel che sta capitando. Sappiamo che sono state perdite di corrente elettrica, case isolate, alluvioni, pompieri mobilitati, polizia, ambulanza, ospedali occupati. Beh, ecco, momenti tragici, momenti drammatici. Devo dire che gli Stati Uniti sono abituati agli uragani, però questo in particolare ha avuto un'evoluzione diversa dal solito, perché tanto ha colpito molto più a nord rispetto alla traiettoria classica degli uragani, che in genere si concentrano nel Golfo del Messico. Poi, cos'è successo? Lo ricorderete, si è unito a una tempesta di neve, una tempesta fredda. Questo uragano era un uragano tropicale e questa tempesta di neve veniva dal nord-ovest e quindi ha formato lo scontro di questi due fronti termici, ha formato quello che i meteorologi hanno soprannominato Frankenstorm, anche, devo dire, per la coincidenza con Halloween. È stato insomma un perfect storm. Però riascoltiamo la diretta di quelle giornate terribili per New York, ma per New York, per Connecticut, per New Jersey, per i tre stati chiave attorno alla furia di questo uragano. America 24, 31 ottobre 2012. This storm is not yet over. We've gotten briefings from the National Hurricane Center. It is still moving north. There are still communities that could be affected. Il presidente è rientrato alla Casa Bianca, ha cercato di coordinare le operazioni di soccorso con 12 stati in diretto contatto con la protezione civile. Dice: la tempesta non è ancora finita, si sta spostando a nord, appunto, come vi dicevo, può ancora creare molti problemi con allagamenti, danni alla rete elettrica, perciò è molto importante continuare a seguire la situazione. Ma il peggio è passato e il peggio, devo dire, ha colpito la città di New York, ha colpito il New Jersey, ha colpito Atlantic City, questa città poco lontana da New York, a circa 120 chilometri, alla Las Vegas della costa orientale, e ha fatto purtroppo parecchi morti. Gli ultimi conteggi dicono 38 morti accertate nei 12 stati. Il sindaco Bloomberg ci ha detto che ci sono stati 18 morti a New York. Make no mistake about it, this was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced. Avete sentito il sindaco Bloomberg, una voce rauca, stanca, è stato sul fronte, devo dire, dalla mattina alla sera. Ci racconta che l'elettricità a New York, praticamente nella zona meridionale, non tornerà per almeno 3 o 4 giorni. Beh, questa, vi confesso, è una cosa che mi riguarda direttamente. Non abbiamo elettricità a casa, non abbiamo acqua a casa, speravamo che fosse soltanto per un giorno, ma quel che è successo è che una centrale elettrica sulla 14ª strada East è esplosa, è vicina all'East River, e una delle centrali più importanti della città. Serve altre 14 centrali distribuite in vari quartieri di Manhattan. Ecco, tutta questa zona meridionale sarà senza elettricità, circa 250.000 persone per 3-4 giorni. Non solo, le metropolitane non funzioneranno di nuovo per 3-4 giorni, gli autobus forse cominceranno a rifunzionare oggi, ma non in modo completo. Per darvi un'idea del danno che la città sta pagando dal punto di vista economico soltanto per la metropolitana inattiva, 2 miliardi di dollari al giorno. Questo è il danno economico stimato dagli esperti. Se dunque la metropolitana sarà ferma per altri 3 giorni più i 2 precedenti, ci sono 10 miliardi di dollari di danni soltanto per la città di New York per il blocco della metropolitana. Se aggiungiamo i danni enormi che ci sono stati nei 12 stati, le stime salgono a 70, 80, forse persino 100 miliardi di dollari di danno. Pensate che l'uragano Irene l'anno scorso, per darvi un'idea, ad un uragano molto violento, aveva fatto appena 18 miliardi di dollari. Quindi vorrei sottolinearlo, non è vero, se avete sentito qualcuno che diceva ma qui è tutta una montatura mediatica, in realtà quest'uragano non è così nulla di importante, soltanto un po' di pioggia e un po' di vento. Non lo è stato, visto l'esplosione dei venti, l'impatto di questo uragano sulla città, sui vetri delle finestre. Insomma, è stato un uragano violentissimo. L'amministratore delegato della Con Edison, la società elettrica di New York, ha detto il più violento della nostra storia dal punto di vista della gestione elettrica. È ovvio, è inevitabile che quando si verifica un fenomeno naturale di questo genere si cercano spiegazioni e si torna a parlare di ambiente, di cambiamento climatico, di riscaldamento globale. Il primo a parlarne è stato il sindaco di New York, Michael Bloomberg. America 24, 2 novembre 2012. A storm like this, it's so strong and so unusual, a global warming incident. I think what is clear is the climate's changing. Nobody knows whether it's a secular or secular thing. Bloomberg, che continua a apparire, il sindaco di New York, in televisione per rassicurare una città che devo dire alquanto spaventata, soprattutto nella zona meridionale dove non c'è luce, non c'è acqua. Ormai sono 2 o 3 giorni che si vive in una condizione molto difficile. Si devono salire magari 10-15 piani a piedi, ci sono addirittura dei grattacieli di 30-35 piani, pensate, e molte di queste persone se ne sono andate, hanno cercato un posto da un'altra parte. Ma le parole che vi ho fatto sentire sono secondo me molto importanti, perché il sindaco dice: una tempesta come questa, con questa potenza così inusuale, ci deve in qualche modo far venire in mente delle domande. Non so, dice, se si tratta di un evento climatico legato al riscaldamento globale o a che cosa, ma quello che è chiaro è che il clima sta cambiando e nessuno sa bene se questa è una trasformazione ciclica o secolare. Un'osservazione, vi ripeto, secondo me molto importante. Di questo ne parliamo ai microfoni di America 24 con Marco Magrini. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, Marco è qui di passaggio a New York e quindi ha potuto vedere in prima persona cos'è stato questo uragano. Marco, ciclico o secolare? Secolare e strutturale, questo è quello che dicono tutti gli scienziati, per lo più americani, da parecchio tempo. Per esempio il Goddard Institute della NASA, che ha sede qui a New York, spiegano che strutturalmente l'aumento delle emissioni serra prodotte dall'economia di tutti i paesi del mondo inevitabilmente provoca un surriscaldamento. E nei modelli degli scienziati è molto chiaro questo, sia un aumento dei fenomeni estremi che, diciamo, l'aspetto attualmente più drammatico che non viene percepito né dal pubblico americano né da quello europeo, cioè che il luogo al mondo dove il riscaldamento è più si sente già di più è il nord del mondo, quindi proprio la Groenlandia, da dove veniva quella perturbazione. Ecco, anche per questo abbiamo poi deciso di continuare ad occuparci di ambiente qui ad America 24. Nelle puntate successive in particolare abbiamo parlato per esempio del progetto Terramar, che è stato creato da Ghislaine Maxwell, che è un progetto per proteggere gli oceani. Gli oceani sono un bene comune, ci appartengono, però sono maltrattati e nessuno davvero se ne occupa. Sentiamo qual è il progetto. America 24, 6 dicembre 2012. C'è una persona che si è dedicata fin da quando era bambina alla ricerca per la protezione degli oceani, si chiama Ghislaine Maxwell, è qui con noi ai microfoni di America 24. Buongiorno Ghislaine. Buongiorno Mario. What is Terramar, Ghislaine? The Terramar project is created in this modern day where we have all the modern technology that we can use to create a global citizenship of the ocean. Ecco, allora il Terramar, questo progetto devo dire straordinariamente affascinante, che cosa vuole, cosa si propone? Si propone di creare una cittadinanza globale alla quale tutti possono aderire via internet, tra l'altro. Terramarproject.org. Potete automaticamente diventare cittadini di questa nuova entità degli oceani. Ecco, l'obiettivo è di creare prima di tutto una cittadinanza globale con milioni di cittadini che possono avere il passaporto di Terramar. E chiedo adesso Aguilense, però il passo successivo non è quello di un riconoscimento di qualche genere nel contesto internazionale. Isn't the next step some kind of recognition at the international level? Well, I'd like to have the ocean's validity and the importance of them to our future to be recognized. Avete sentito, Ghislaine ci dà un obiettivo molto ambizioso, ma devo dire molto logico, perché la definizione del bene comune appartiene alla Carta delle Nazioni Unite. Dice dunque: io ho come obiettivo quello di creare un riconoscimento a livello globale, di modo che poi questa validità del progetto per gli oceani terra-mar sia riconosciuto come un vero e proprio Stato, e non come uno Stato che abbia una rappresentanza permanente di osservatore permanente, come per esempio il Vaticano, ma che sia riconosciuto con un seggio con il diritto di voto. E così, chiacchierando del globale, siamo andati anche al locale. Abbiamo chiesto al ministro dell'Ambiente Corrado Clini qual è il quadro della situazione italiana per la protezione degli oceani e dei mari. Sentiamolo. America 24, 12 dicembre 2012. Soffriamo di pesca pirata anche noi, i nostri pescatori. Ci sono delle incursioni di pirati che vanno a pescare con modi, diciamo, illegali. E quanto incide questo sul nostro giro d'affari? Dunque, intanto è importante che ci sia la consapevolezza che si tratta di pesca pirata, nel senso che abbiamo delle regole che impediscono l'esercizio di attività di pesca che possono essere pericolose per l'ambiente marino. Questo è già un fatto importante. Per esempio, quali attività di pesca? Le pesche a strascico, le pesche con le bombe di profondità, le pesche in periodo non consentito. Queste attività, certo, ci sono, fanno parte di attività illegali che vengono sanzionate e colpite. L'Italia ha una situazione di, direi, alta protezione per quanto riguarda i nostri mari, perché oltre a queste limitazioni all'esercizio della pesca abbiamo anche poi una rete molto fitta di aree marine protette, di siti di interesse comunitario, sempre zone protette, per cui la regolamentazione della pesca in qualche modo è anche sostenuta da questa rete di presidi naturali che sono molto importanti. Naturalmente il Mediterraneo non è fatto solo dalle acque territoriali degli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno regole molto rigide, per cui abbiamo alcune zone del Mediterraneo che invece sono esposte a rischi di pesca, un po', potremmo dirla, di rapina delle risorse, e su questo, nonostante la Convenzione del Mediterraneo che vede partecipare tutti i paesi rivieraschi, comunque è ancora un fatto negativo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Walking in a Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, oh, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird here to stay. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.